di questa sera. Per questo strano bisogno, anch'io mi vergogno. Che male c'è, che c'è di male, se la mia vita ti appartiene ed è normale. Che male c'è, che c'è di male, se chiudo gli occhi insieme a te. Sto così bene. Credimi, averti incontrato è stata una fortuna, perché stare da sole a volte, sì a volte, fa paura. E tu mi hai messo le manette, poggio la testa sulle gambe strette, mi sveglio in mezzo a quel sorriso gridando questo è il paradiso. Che male c'è, c'è di male, se la mia vita ti appartiene ed è normale. Che male c'è, che c'è di male, se chiudo gli occhi insieme a te sto così bene. Prendimi, prendimi, lanciami il segnale, un giorno di sole col diluvio universale. Lanciami uno sguardo per farmi capire se devo stare zitto oppure lo posso dire. Che il potere è vero, solo e solo il sentimento, e noi ci siamo fino al collo, ci siamo dentro. Che bella confusione che c'è nella mia mente, e com'è bello stare con te in mezzo alla gente. Che c'è di male, se la mia vita ti appartiene ed è normale. Che c'è di male, se chiudo gli occhi insieme a te sto così bene.